sara. Guarda, sta diventando incontenibile. Il dissenso opposto a noi, saliremo sul patibolo. Ma sappi che non sapranno mai cavare il nostro occhio aperto che veglierà su di voi. E so che siamo illuminati. Dichiariamo lo stato d'emergenza. Sara. Quando infine tutti insieme scenderemo verso il fiume e l'acqua ci accoglierà, non distingueremo più se siamo stati vittime o carne. Sacro Sara.